Vendo tutto di Matteo Caccia. Quando realizzi un tuo desiderio è come se una parte di te fiorisse. È come se finalmente potessi vedere con i tuoi occhi quello che avevi tenuto nascosto per un sacco di tempo. Sabato mi sono lanciato da 4.000 metri e quello che dovevo vedere l'ho visto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un umidificatore. Sono le 16:08 minuti, buongiorno a tutti, questa è Radio 24, da una Milano che è sempre più un incrocio tra la foresta amazzonica nella stagione delle piogge e la Norvegia nella stagione autunnale. Questo è il programma, si chiama Vendo tutto, @radio24.it. Uè, non lo dico mai, L'ho detto così oggi. Abbiamo anche una mail: vendotutto@radio24.it oppure 349-238-6666 per scrivere sms, 800-24-0024 per telefonare. È molto bello entrare nello studio di Radio 24 dopo che c'è stato Gigi Garanzini, perché tutto lo studio sa di dopobarba. Sai quella cosa che hanno un po' i nonni, con tutto rispetto per Gigi, però i signori, cioè tipo, io non mi faccio la barba neanche Bonini, però Paolino, tu che ti fai la barba, tu usi il dopobarba? No. Sì, però usi una roba che non ha, è leggera. Invece è come quando entro, che sai, nello studio di mio padre, nell'ufficio di mio padre, e c'è questo odore di dopobarba, è quasi consolatorio, perché è come se ci fosse qualcuno che fa ancora le cose che vanno fatte. Ogni mattina si fa la barba e si mette la dopobarba, ma non è di questo che parliamo oggi. Non è del dopobarba di Gigi Garanzini e nemmeno del fatto che fuori comincia a diluviare, che Milano ormai è ridotta un lago. No, oggi parliamo di un oggetto per me importante, un umidificatore, un oggetto che ha fatto crollare tutte le mie certezze. Perché ne parliamo? Non solo perché lo vendo, ma in realtà oggi ne parliamo al contrario, perché questo oggetto non doveva essere venduto. Mi spiego. Allora, è vero che vendo tutto, però visto che il programma finisce il 2 di luglio e sono 120 puntate, io venderò 120 oggetti, giusto? Ok. A questo punto cosa accade? Che ci sono degli oggetti che non riuscirò a vendere, e quindi avevo intenzione di regalarli. Questo umidificatore doveva essere un regalo. Allora, primo, perché è un bellissimo oggetto. Secondo, perché è utilissimo. Terzo, perché è praticamente quasi nuovo. A chi avrei dovuto regalarlo? Avrei dovuto regalarlo a il mio amico Fez e la sua fidanzata Margherita, che si sposano sabato. È inutile che fate con le facce, voi di là dal vetro e voi che state ascoltando, perché comunque, a parte che non mi piace partecipare alle liste nozze, mi piace arrivare con un oggetto, perché come dice mia nonna, mai arrivare a casa di qualcuno a mani lunghe, cioè che poi vuol dire a mani vuote, ma il fatto è che mi sembrava un bell'oggetto da regalare a una coppia che si sposa, no? Perché lo si usa quando c'è il bambino. Faggine, inutile che fai quella faccia, sai che fa bene per purifica l'aria. Poi però mi ha messo in crisi il fatto che qualche giorno fa Fez mi ha scritto un messaggio che dice così: ciao Caccia, sei stato scelto per scrivere e leggere durante la cerimonia di sabato le intenzioni. Grazie Paolino che ha fatto ripartire tutto, perché è quello che è successo quando ho ricevuto questo sms. Cioè, che cosa sono le intenzioni? Gliel'ho scritto, lui mi ha scritto: devi scrivere 2 o 3 righe su di me e Margherita che siano un augurio per il matrimonio, per la vita di nozze. Una roba che duri tra i 30 secondi e i 2 minuti e li devi pure leggere. Allora, la prima cosa che ho dedotto è stata: se mi chiedono di fare una cosa che non sapendo cosa sia è importante, non posso arrivare con l'umidificatore. Ok, penserò da qui a sabato qualcos'altro, e va bene. E quindi l'umidificatore lo vendo oggi. Ma il problema è, ma le intenzioni, ma cosa sono? Cioè, è per questo che oggi ho bisogno di voi, lo dico seriamente, perché io gliel'ho chiesto a Fez, ma cosa sono le intenzioni? E lui mi ha detto, ma una roba che a metà, una roba che dura appunto, come dura 2 minuti, è una roba che a metà tra un augurio e una roba di una persona che ci conosce bene. 800240024 349-238-6666. Se vi siete appena sposati e quindi l'avete chiesto a qualcuno, se un vostro amico si è sposato e vi ha chiesto di scrivere e di leggere le intenzioni, ma soprattutto, scusa, abbassa un pelo là. Preti all'ascolto. Ci saranno dei preti che ascoltano Radio 24, no? Come no? Preti all'ascolto. 800240024 349-238-6666. Che cosa sono le intenzioni? Cioè, è quella roba tipo preghiamo, ascoltaci Signore, oppure è una roba tipo un discorsetto allegro alla quattro matrimoni e un funerale. Sono in serie ambasce. 800240024 349-238-6666. Mi piacerebbe tantissimo avere un prete, altrimenti una persona che ha scritto le intenzioni per un amico o qualcuno che si è appena sposato. Per piacere, datemi una mano. 800240024. Veniamo al mio umidificatore, che a questo punto non regalo più a Fez e Margherita, ma lo metto in vendita. Per vederlo, radio24.it, per sentire la sua storia. 3, 2, 1, via! L'umidificatore. Umidificatore ad ultrasuoni marca Chicco. Umidifica gli ambienti senza fare il minimo rumore. Usato ma decalcificato periodicamente, produce vapore freddo evitando fastidiose ustioni. Ottimo per umidificare ambienti con neonati, adolescenti, post-adolescenti, maturi, vecchi. Valore commerciale 95 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Avete presente quando vi svegliate la mattina e state male? Non parlo di cattivo umore, roba tipo depressione o cose del genere. No, no, intendo proprio male male. Tosse, raffreddore, febbre, mal di gola, quelle robe lì. Ecco, non so perché, però a me quella sensazione un po' piace. No, non sono masochista, e probabilmente mi ricorda il periodo in cui essere influenzati voleva dire saltare la scuola, no? Quando si era bambini. Quindi c'è sempre una parte di me che quando sente quel raschietto alla gola oppure le ossa che scricchiolano è felice di potersi mettere sotto il piumone e farsi servire, aspettando che passi. L'unico problema però è che l'epoca in cui la mamma mi portava il canarino a letto e io me ne sbattevo di quello che non potevo fare perché ero malato, beh, quell'epoca è passata ovviamente. Da qualche anno ormai non c'è nessuno che mi porta il canarino e soprattutto ci sono cose che vanno fatte, anche se stai male e preferiresti startene a letto. Mi è accaduta una cosa così qualche anno fa. Stavo lavorando in teatro, poi nel frattempo avevo iniziato un corso di inglese, stavo per partire per New York, avevo conosciuto da poco Giulia, insomma, in poche parole, non potevo ammalarmi. La prima cosa che feci da persona adulta fu andare dal medico. Fu un errore in realtà, primo perché le sale d'attesa dei medici sono i posti più malsani della terra. Se non sei già malato di tuo, ti prendi per forza qualcosa da quelli che aspettano insieme a te. Secondo, perché il medico non fece nulla se non scarabocchiare dei nomi di farmaci su un blocchetto e poi mi spedì in farmacia. La farmacia è il mio luogo consolatorio per eccellenza, più degli ambulatori, più degli ospedali. Per me le farmacie sono come un digestivo. Lo prendo e aspetto, e so che qualcosa succederà. Sì, le farmacie mi piacciono proprio, perfino l'odore delle farmacie è rassicurante. È un misto di floreale e di chimico. Sembrerebbe poter guarire qualsiasi malanno. I signori in camice dietro al banco hanno sempre risposte per tutte le domande. Voglio dire, ci sono talmente tanti medicinali che mi aspetterei almeno una volta di sentirli dire: guardi, mi spiace, non so di che medicina stia parlando. E invece no. Loro annuiscono sempre, si girano, aprono un cassetto lunghissimo e tirano fuori la scatoletta giusta, quella che ti salverà la vita. E così andò quella volta. Il signore dal camice bianco mi diede i medicinali che il medico mi aveva prescritto, poi mi guardò e mi disse: faccia una cosa, oltre alle medicine, le consiglio di fare i sufumigi. E se non ce l'ha in casa, prenda anche un bel umidificatore. Io annuì e poi uscì dalla farmacia con un grande punto interrogativo. Ma cosa diavolo è un umidificatore? Oh, I was set to find the lonesome place where I was lost but left a trace by carving riddles on the lonesome pine. Oh, but rumor has it that I wasn't born. I just walked in one frosty morn into the vision of some vacant mind. Io sono cresciuto in un paese in cui da metà aprile fino a settembre la campagna tutta intorno è un unico lago di risaie. Roba che secondo me in Vietnam c'è meno umidità. E quindi ho sempre imparato ad odiarla, l'umidità, a considerarla un grande nemico. Nelle dispense si usa il sale per evitare che il cibo vada male e i deumidificatori per asciugare l'aria. L'umidità fa arruffare i capelli, fa crescere la muffa sui muri, arrugginisce le ossa e se hai vecchie fratture te le fa stridere. Il motto di mia nonna in estate quando ci sono 30 gradi è: non è tanto il caldo, è l'umidità. E in inverno, quando ce ne sono meno 3, è: non è tanto il freddo, è l'umidità. Insomma, l'umidità è il male. Poi un bel giorno un farmacista mi dice che per guarire meglio ho bisogno di umidificare la stanza in cui dormo. E a me crollano i massimi sistemi. Cioè, è un po' come dire a un bambino che Babbo Natale è un alcolista. Oppure a un vegetariano che la verdura è cancerogena. Quindi, visto che il mio obiettivo era non ammalarmi, con tutti i dubbi del caso, sono andato a comprarmi un umidificatore. Quando sono entrato nel negozio di elettrodomestici, la commessa ha subito dato per scontato che non fosse per me, ma per mio figlio. Io non ho avuto il coraggio di dirle che non ce l'avevo, un bambino, come l'aveva consigliato un farmacista, anche se avevo 30 anni. Lei però ha attaccato a spiegarmi tutti i benefici di questa magnifica invenzione. Allora, il riscaldamento in casa durante l'inverno può essere molto nocivo alla salute, perché quando i termosifoni sono accesi non c'è abbastanza ricambio d'aria e l'ambiente tende a seccarsi. Il vapore acqueo è utilissimo perché ristabilizza il tasso d'umidità nelle mura domestiche, ma è soprattutto un toccasana per i bimbi, dal momento che fluidifica il muco ed evita che si secchi il nasino. Ha detto proprio così, ha detto il nasino. Ha detto che spesso per liberare le vie nasali viene utilizzato con unguenti all'eucalipto, mescolati all'acqua per effetto balsamico con azione decongestionante. Insomma, ovviamente la commessa mi convinse, come al solito, io acquistai questo modello meraviglioso, che per di più funziona ad ultrasuoni, quindi non scalda l'ambiente, emette vapore freddo. C'è una roba che sembra inventata apposta dal capitano Kirk per l'Enterprise. L'ho usato per tutto quell'inverno. La porta della stanza da letto era sempre chiusa, per tenerla isolata dal resto della casa. Sembrava una serra. L'aria era pulitissima perché il pulviscolo che genera la polvere si appesantiva grazie all'aria umida e cadeva, rendendo l'aria più pulita. E secondo me, se da allora non sono più stato così male, è anche per merito di questo umidificatore d'aria. Eppure, nonostante tutto, questo umidificatore è in vendita. Il suo valore è di 95 euro, la base d'asta sono 99 centesimi. Non lo regalo più, ok, ma se sapete che cosa sono le intenzioni di matrimonio, vi prego, raccontatemelo. 800 24 0024. Seconda volta che mi trovo a fare il testimone. Spero di essere stato all'altezza della situazione la prima volta. Perché se è una roba così, la questione continua ancora a rivolgermi la parola. Alla quattro matrimoni e un funerale. Cioè, se è un discorsetto in cui la gente però deve anche ridere. Sì, c'è un però. Boh. Non parlano più tra di loro. Il divorzio è stato pronunciato un paio di mesi fa. Io ci provo anche. Però mi sembra un pochettino difficile, no, gestire una roba del genere. Cioè, anche perché qua mi scrivono 349-238-6666. Le intenzioni sono tipo quelle che si dice ai funerali per un morto. Curioso, no? Poi, sono le preghiere dei fedeli. E ancora, esatto, sono quella roba lì, bla bla bla, ascoltaci signori, ma le intenzioni che si leggono durante la messa prima dell'offertorio in genere sono almeno 3 o 4. Auguri. Caccia, sei uno sfigato, ha fatto bene la testa, ma ha mollati. 800 24 0024. C'è qualcuno che sa meglio di me che cosa sono le intenzioni e quindi lo chiedo a lui, in questo caso a lei, Cesarina da Torino. Pronto Cesarina? Pronto, sono io. Sì, sei tu, fino a prova contraria sei tu. Ho 77 anni e sono pittrice in questo momento, sono nel mio atelier. Cesarina, io non ci credo che hai 77 anni perché hai la voce di una di 27, però facciamo finta che ci credo. Almeno la voce, riusci a farlo. Ma che cosa, scusa Cesarina, tu cosa hai nel tuo atelier perché sei una pittrice? Sì. E cosa dipingi? Da principio, dopo l'accademia, dipingevo astratto, ma adesso son tornata alla natura. Sei tornata alla natura? Alla natura, hai detto? Sì, fiori, cascate, alberi, mare, cielo, tutto. Ma Cesarina, scusami, e poi veniamo all'argomento, ma è un passatempo o è il tuo lavoro? No, è il mio lavoro. Ah, e quanto viene un quadro di Cesarina? Insegno anche alle terze età. Quanto viene un quadro di Cesarina? Bisogna vedere dalla grandezza, insomma, partono da 50 fino a 800. Ah, bene Cesarina. Senti, veniamo al dunque invece, questa intenzione di matrimonio. Dunque, io non sono un prete, non l'avrei capito. Fino a prova contraria. Sono molto religiosa, ma come quelli della mia età vado sempre a messa. Mm-hmm. E ho assistito a molti matrimoni, avendo tanti parenti giovani, E allora so che sono le preghiere dei fedeli, come ti hanno già detto, tra prima dell'offertorio, e tu non ti spaventare, tu ne devi scrivere una, poi vanno due o tre a leggere queste intenzioni, e non sono come un funerale, sono tutte di bellezza, di gioia, di auguri, di felicità. Ma mi fai un esempio però, Cesarina, perché veramente ti giuro che io non capisco. Cioè, tipo, per Federico e Margherita che si sposeranno e staranno bene insieme. Sì, così. Questo va benissimo. Ah, va benissimo. Io l'ho detta un po' più spirituale, l'ultima. Sì. L'ho detta per i miei cugini di Varese 10 anni fa, e ho scritto che la vostra unione sia felice. Sia felice come l'unione tra Cristo e la sua Chiesa. Ma tu puoi anche dire che siate felici e contenti. Punto e basta. Senti, Cesarina, che cosa stai dipingendo in questo momento esatto? Guarda, in questo momento non proprio dipingo, mi sto preparando le tele perché c'è tanto buio. Anche qui è un torrente di pioggia. Cesarina, vieni a Torino venerdì 14, che siamo al Salone del Libro in diretta, mi raccomando. Dove sei? Al Salone del Libro, al Lingotto, padiglione numero 2. Sì, ci vediamo là. Ci sono anche i puff che sono comodissimi. Cesarina, grazie mille per il consiglio. Buona giornata. Buona giornata a te. Ci vediamo venerdì prossimo. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Andiamo a Piacenza da Daniele. Cesarina numero 1. Pronto, Daniele? Pronto. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Tu sei un prete? No. Perché? No, insomma, sono sposato da poco. Ah, ok. Ho assistito a qualche matrimonio, quindi... suggerimenti, di solito, appunto, come dicevano, sono le classiche preghiere dei fedeli, e di solito se ne dicono almeno tre: una riservata agli sposi, una ai genitori degli sposi e una agli amici. Ok. Quindi, mi fai un esempio, Daniele, e poi vado a un altro ascoltatore. Cioè, a meno che ovviamente i genitori degli sposi non siano separati, perché insomma si richiederebbe la figuraccia. Ovvio. Si può dire per, non so io, per le famiglie degli sposi, perché con il loro esempio possano guidare. Ok, ho capito. Perfetto, famiglia, perfetto, una roba... Va bene. Daniele, ti ringrazio molto e ti faccio sapere come va. Buona giornata. Ciao. Stiamo a Milano da Emanuele. Pronto, Emanuele? Pronto, ciao Matteo. Ciao, so che tu ti sei offerto addirittura per sentirci più tardi e darmi una mano a metterle giù. Però sì. Tu l'hai cosa fatto? L'hai fatto di recente anche tu oppure... No, a parte che mi sono sposato di recente, ma io sono anche un fotografo, per cui ogni settimana me le sento queste cose qua. Ok. Quindi... No, vabbè, però mi sembra che abbiamo già detto tutto, voglio dire, in effetti proprio l'ultimo ascoltatore, cioè è importante, se vuoi fare un figurone, punta sui genitori. Va bene. Quelli che ti fanno i complimenti. Punterò sui genitori. Emanuele, grazie mille, buona giornata. L'ultima telefonata, torniamo ancora a Torino con Don Corrado? Sì, sono io. Sei un prete? Sono un prete. Quanti anni hai, Corrado, o Don Corrado? 38. Allora ti chiamo Don, che fa molto oratorio. Uè, Don! Sì. Sono il Don dell'oratorio. Ti correggo però, perché non sono a Torino, ma a Trino. Scusami. È un piccolo paese. Trino Vercellese. Bravo. E vabbè, insomma, essendo di Novara lo so. Don, che cosa, meglio di te, chi è che mi puoi aiutare? Cosa sono esattamente le intenzioni? Le intenzioni sono quelle preghiere che si dicono durante la messa, prima dell'offertorio e dopo l'omelia, diciamo così. Però visto che devo scrivere una frase, un augurio... Ce ne sono un fiume. Principalmente per gli sposi, per la loro famiglia. Per i genitori, sì, sicuramente. Ma ascolta, devo mettere dentro qualcosa di ironico oppure è meglio andare via lisci, sereni, per il futuro? Perfetto. Però ecco, la cosa importante è l'intenzione, paradossalmente, non tanto la parola che ci metti. Ok. Nel senso che se non preghi per loro non riescono a essere fedeli fino alla fine, capisci? Cioè il matrimonio cristiano va fino alla fine. Cioè aspetta, fammi capire una cosa. Vuoi farmi capire che il rapporto tra questi due ragazzi dipende da come io leggo le intenzioni? No. Non da come le leggi. Però da quello che hai nel tuo cuore. Va bene, ok, il messaggio è arrivato. L'intenzione delle intenzioni, mettiamola così. Don, ti ringrazio molto. Ciao, buona giornata. Ciao. Grazie a lui, grazie a Laura, Tiziano, Alessandro e Paolino Corleone. L'umidificatore ovviamente è sul sito. Domani invece vendo un tavolo da cucina, un pezzo da 90 domani. Voi invece se avete degli acciacchi, curatevi, che alla fine stare bene è sempre meglio che stare male. Love, love, love, wherever you are.